Quando arriva la corriera a Kansas City, porta a bordo setti odotto strani tipi. Trovi Mary, la cantante Kid Mentola, Joy lo smilzo con il nonno di Afragola. Il postiglione fischiando tipo tu, oramai non teme più le frecce dei Sioux. Ma quest'oggi la corriera a Kansas City ha portato un discendente dei Quiriti. Lo sceriffo tiene d'occhio quel romano, perché fa meglio d'un moicano. Ippio, ippie, l'America dov'è? Io lo so, sul Missouri e Kansas City è lì. Solo là trovar tu puoi più mucche che cowboy. Niente trenne pur tramvai, ma in diligenza vai. Fischiando ti portù, oramai non teme più le frecce dei Sioux. Ma quest'oggi la corriera a Kansas City ha portato un discendente dei Quiriti. Lo sceriffo tiene d'occhio quel romano, perché fa l'indiano meglio d'un moicano, perché fa l'indiano meglio d'un moicano.